Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. In via Padova, a Milano, si trova un pub che rappresenta uno degli ultimi baluardi della presenza italiana in quella strada e che si ispira a un immaginario da vecchia Milano anni 70, quella dei film polizieschi di Umberto Lenzi, per intenderci. Ogni sera un concerto rock nel sotterraneo e un bancone con simpatici gestori che hanno ancora lo spirito di relazione con tutti quelli che frequentano il locale. Ogni sera, sul marciapiede davanti al pub, si forma un capannello di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, per la maggior parte italiani, e il risultato è che ci sentiamo totalmente rasserenati dal clima di tranquillità che si crea in quel tratto di marciapiede. Questo è un caso esemplare di come la musica, l'aggregazione, lo stare insieme a bere un cocktail rappresentino un deterrente contro la forte insicurezza che normalmente si riscontra in quella che è una delle vie più pericolose e invivibili d'Italia. È la dimostrazione di come un bar possa essere un segnale di presenza e di resistenza di noi italiani, dinanzi all'avanzata del degrado di un quartiere multietnico come quello di Via Padova. Di come un bar e un evento live possano far superare le barriere di paura ed emarginazione dei quartieri multietnici e creare uno splendido episodio di sicurezza non repressiva. Perché noi giovani accusati di essere voraci consumatori di droghe e alcol non veniamo mai considerati come potenziali difensori latenti della sicurezza di una città? Perché ci condannano come artefici dell'insicurezza dei cittadini comuni? All'estero tutto ciò non accade. Marco. Caro Marco, la testimonianza che lei ci offre è particolarmente interessante dopo che i fatti di Via Padova hanno riempito le pagine dei giornali nei giorni scorsi. Ma quello che lei dice non è una sorpresa, anzi, vi sono tutti i motivi per ritenere che di luoghi di integrazione e aggregazione ne esistano molti e aiutino in maniera silenziosa e costruttiva i rapporti tra i giovani e l'integrazione sul territorio. Magari con forme del tutto spontanee e che non rispondono alle immediate finalità delle varie iniziative. Anche per questo, prima di dare giudizi sommari sulle realtà che presentano problemi, non dobbiamo dimenticare che a fianco di episodi spesso isolati e imprevedibili, esiste una quotidianità, fatta anche di piccoli gesti e di incontri costruttivi. Ma questo non vuol dire che l'informazione sbaglia a dare solo notizie clamorose. Non sbaglia, fa il suo dovere, anche se qualche volta, forse, esagera nel dipingere con i colori della rivoluzione quella che si rivelerà poi una comunque pericolosa, ma limitata, protesta. Secondo il mio modesto parere, il blocco del traffico non risolve assolutamente il problema dello smog, ma aiuta la gente a rendersi conto del problema e di quanto siano più vivibili le città con meno auto. Di sicuro non peggiora le condizioni dell'aria. Dovrebbe essere accompagnato e poi sostituito da altre iniziative che incentivino l'utilizzo dei mezzi pubblici, ma anche la riduzione dello smog dovuto ad altre fonti, per esempio l'eccessivo riscaldamento di case e uffici. Edoardo. Mi ha colpito il fatto che alcune sere fa, in un paio di telegiornali, è passata la notizia che un abusivo di Ischia, prima che la sua casa venisse abbattuta, aveva pensato bene di smontarla e di occupare un ufficio del comune di residenza, in attesa che trovassero una sistemazione per lui e per la sua famiglia. Mi sono cadute le braccia. Ma queste case, che non sono certo baracche, questa era di 100 metri quadri, avranno pure avuto gli allacciamenti a luce, acqua e scarichi. Possibile si permettano certe cose? A Firenze, se ti provi ad alzare un muro, hai vigili addosso il giorno dopo. Se questa penisola deve formare un unico stato, perché le leggi non sono uguali ovunque? Aveva ragione Metternich allora. E non mi parlino dello stato di necessità, altrimenti tutto diventa giustificabile. Non regge più nessuna legge, nessuna struttura sociale. Io pago 750 euro d'affitto per 50 metri quadri in una zona non certo bella di Firenze. Questi invece costruiscono delle quasi villette abusive e poi pretendono una sistemazione a spese della comunità. Credo che le cosiddette guerre fra poveri siano un'ipocrisia. In realtà siamo più sensibili alle cose che possiamo toccare con mano tutti i giorni che non agli scandali miliardari o presunti tali che sono lontani anni luce da noi. Gianluca, Firenze. C'è una cosa che nessun organo di informazione ha messo in luce sugli ultimi due casi di corruzione denunciata. In ambedue i casi, il corruttore pagava per vedersi riconosciuto un suo diritto sacrosanto. Finché non si smantelleranno le normative bizantine che regolano la burocrazia, resteremo un popolo di sudditi, a volte condannati a pagare per ottenere il dovuto. Il piano casa, pur essendo una porcata nel suo impianto generale, aveva al suo interno un principio sacrosanto, ovvero che se rispetto il piano regolatore e le normative cogenti, ho il sacrosanto diritto di edificare senza dover chiedere il permesso a nessuno. Andrea. Le intercettazioni dovrebbero essere a discrezione degli investigatori, nei limiti del budget loro attribuito, e dovrebbero essere utilizzate solo come mezzo di investigazione. Quindi non dovrebbero per nessun motivo essere pubblicate e fatte conoscere. Gli investigatori, grazie alle intercettazioni, dovrebbero trovare le prove dei reati, e solo queste dovrebbero entrare nei fascicoli giudiziari. I problemi relativi alla moralità della politica, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria dovrebbero far parte di un'altra storia, quando non siano violate le norme di legge. Stanti le norme sugli appalti pubblici, dubito che si possa togliere una commessa a un imprenditore solo perché si è sfregato le mani alla notizia di un terremoto. Roggero. La magistratura, come ogni corporazione, generalmente è conservatrice per natura e ha paura del cambiamento. L'abolizione dell'immunità parlamentare, unita alla facilità di far trapelare notizie sulle indagini, permette ad una parte della magistratura di fare delle entrate a gamba tesa sulla politica, allo scopo di non cambiare nulla. Questo avviene, ad esempio, quando ci sono le elezioni. Si indaga qualche politico per ricordargli che i magistrati ci sono e che quindi devono fare attenzione a come si muovono. Anche se poi il 90% di queste denunce finisce con il non luogo a procedere. Il Parlamento deve poter legiferare in piena libertà, il governo deve poter procedere a governare nel pieno dei suoi poteri e la magistratura deve poter vigilare che le leggi vengano applicate correttamente. Oggi però siamo in una situazione di stallo totale, dove tutti vogliono delegittimare tutti per non cambiare nulla. E secondo me i primi e maggiormente interessati allo status quo sono proprio i magistrati, che nella situazione attuale godono di tutti i vantaggi e privilegi senza pagare nessun onere, anche e soprattutto quando usano il loro privilegio per non fare il proprio dovere. La soluzione del problema, secondo me, sta nella restaurazione dell'immunità parlamentare e delle alte cariche, la cui sospensione nel 1994 ha causato tutti quei danni che oggi conosciamo. Ma non possiamo ripristinare un privilegio così importante senza un contrappeso che ne limiti eventuali eccessi. E la soluzione potrebbe essere il limite di 2 mandati legislativi, che permetterebbe alla magistratura di poter operare in tempi umani e toglierebbe ai parlamentari la possibilità di avere un tipo di immunità quasi divina. Nel contempo darebbe la possibilità al governo e al Parlamento di poter operare nel pieno dei propri poteri senza interferenze esterne o condizionamenti di sorta. La magistratura, a questo punto, non dovendo più occuparsi della politica, finalmente dovrà limitarsi al lavoro ordinario, anche se di poca notorietà, e permetterà di arrivare a quei tempi umani di un giusto processo della povera gente che, non essendo causa di notorietà, viene dimenticata negli anfratti dei tribunali. Mario. Capita spesso, di fronte a fatti di cronaca nei quali le vittime sono uomini, di osservare reazioni di insensibilità, menefreghismo o peggio ancora di accanimento nei confronti di chi, papà, bambini, ragazzi, uomini, ha subito queste violenze. È veramente indecente. Quando c'è una violenza non bisogna indignarsi in base al sesso o all'età della persona che l'ha subita. Lo si vede ad esempio sui papà privati dei propri figli. Anche gli uomini e di tutte le età hanno un cuore e quando sono vittime di un crimine, violenza o ingiustizia, soffrono e provano dolore nel vedere tanta insensibilità e crudeltà nei loro confronti o nei confronti dei loro fratelli, amici, dei loro bambini, dei loro padri che stanno soffrendo. Capisco che negli anni passati siamo stati così tanto inondati di violenze sulle donne, tanto da coniare addirittura un insano termine come violenza di genere. La violenza non ha sesso e nessuno che la subisce può essere considerato meno di altri che la subiscono. È una cultura, un pregiudizio da cambiare perché crea emarginazione, sofferenza, conflitto tra i sessi, apatia. Molti stanno cambiando. È importante capire. Fabio. Il drug test sui parlamentari, fatto come è stato fatto, è ridicolo. Sarei d'accordo se venisse fatto un esame a sorpresa, che ne so, 5 parlamentari al mese, in modo da tenerli sull'attenti. E bisognerebbe rendere pubblici i risultati, anche quelli positivi. Non è possibile avere dubbi sulla lucidità di persone che decidono per milioni di cittadini. Non è possibile che le stesse persone che poi votano leggi ultra repressive abbiano rapporti con spacciatori. Se avessero davvero voluto tenere anonima questa tornata di test antidroga dei quali abbiamo appena conosciuto i risultati, perlomeno avrebbero dovuto farli tutti, in modo da comprendere la grandezza del fenomeno. Will. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.